piano. Di Enrico Ruggeri. Questi sono tempi nei quali ci sono molte donne che diventano famose per motivi che neanche noi riusciamo a capire bene. Sono tempi di subreddit, di fashion blogger, di donne anche di bassa qualità interiore che però per vari motivi arrivano in alto, e questo insomma non depone a favore della nostra società. Però ci sono anche dei cammini silenziosi, sconosciuti ai più, che possono generare un incredibile eco nel corso del tempo, anche a chilometri di distanza, perché a fronte di queste donne un po' fatue, che secondo l'accezione comune ce l'hanno fatta, ma ce l'hanno fatta solo magari avere un po' di soldi e un po' di foto, ci sono invece delle altre donne che magari spendono la loro esistenza in favore di persone che si trovano in condizioni di svantaggio, di difficoltà, di povertà, donne che contribuiscono a cambiare le cose. Magari il loro esempio non fa notizia, ma lascia un solco profondo. Ho sempre cercato fortemente il bene dei più deboli, la promozione umana, specialmente delle donne e dei bambini. Sono riuscita in questa mia impresa a coinvolgere altre persone, ad allargare il cerchio, perciò non ero più sola ad affrontare i progetti. La voce che avete appena sentito è la voce di Enrica Lombardi, la nostra protagonista di oggi. È una donna che magari non conoscete, non sapete nulla di lei, ed è un male, perché questa è una storia veramente incredibile. Stiamo parlando di una imprenditrice di successo nel campo dell'abbigliamento femminile, ma anche una donna di profondissima spiritualità, animata da un grande slancio umanitario in Italia, in Africa, in America Latina. Una persona che è stata capace di fare dialogare culture, classi sociali diverse. La prova vivente del suo coraggio la dà nel pieno del genocidio nel Ruanda. Proviamo a conoscere meglio Enrica Lombardi, nata a Castenedolo in provincia di Brescia il 2 febbraio del 33, la prima di quattro figli. Dopo di lei arriveranno Giorgio, Piero e Roberto, addirittura 18 anni più tardi. Famiglia umile, religiosa, il padre che lavora in un'antica polveriera, che peraltro era stata più volte teatro di esplosioni distruttive, per cui la madre Olivia prende una decisione molto saggia. Siccome lavora anche lei nella fabbrica, chiede che le vengano assegnati turni diversi da quelli del marito, in modo che in caso di incidente uno dei due rimanga a occuparsi dei bambini. E questa è una cosa molto bella. Anch'io non viaggio mai in aereo con le madri dei miei figli, per esempio, per evitare guai. When the pilot informed us of what he was planning, and I heard the dirty words, emergency landing. Well, my brakes locked up and my wheels fell off. That's all that I can manage to go for a walk. Enrica dimostra fin da piccola la curiosità, la voglia di imparare, vuole proseguire gli studi, andare all'università, però negli anni 40 questo è un percorso precluso alle donne, soprattutto in quei contesti, diciamo, di disagio economico. C'è la famiglia che si allarga, c'è l'affitto da pagare, le spese quotidiane, e insomma i genitori danno la possibilità di studiare ai figli maschi, ma non a lei, e questa era la prassi dell'epoca. E così lei vuole contribuire a far quadrare il bilancio familiare e comincia a lavorare. È solo una ragazzina, va presso le famiglie ricche e influenti di Brescia, si occupa delle faccende domestiche, però nel tempo libero fa un corso di taglio di cucito, insomma da autodidatta comincia a sviluppare l'arte della sartoria, scopre di avere un grande talento per il disegno, realizza modelli, insomma comincia a confezionare degli abiti per i suoi datori di lavoro e il passaparola corre, i clienti si moltiplicano e lei comincia a farsi un nome, comincia a proporre anche corsi di taglio e di cucito, inizia presso le famiglie per le quali lavora e estende piano piano il suo raggio d'azione, attraversa la provincia di Brescia in lungo e largo con la sua Vespa per portare i suoi prodotti, per portare il suo metodo di insegnamento. Cominciano a conoscerla in molti, viene chiamata nelle scuole, nei comuni, nelle parrocchie, tiene lezioni, comincia ad andare in altre città, va a Savona, Genova, Firenze. Siamo negli anni 50, siamo negli anni del boom economico, c'è una ricerca di leggerezza dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e il settore della moda femminile in qualche modo è esattamente quello che l'Italia vuole, vuole sorridere, vuole riprendersi, vuole dimenticare. Enrica ormai è abilissima nella sua attività, viene assunta come prima dipendente di una nuova azienda che è in provincia di Brescia e grazie al suo stipendio la famiglia comincia piano piano a risalire, si sta costruendo una piccola casa di proprietà e lei per raggiungere la sua autonomia a un certo punto prende la patente e acquista un'automobile, è la prima donna del suo paese a guidare, è una ragazza emancipata, economicamente indipendente, ce l'ha fatta, è una vera e propria rarità per quell'epoca. Di giorno stava in catena e alla sera disegnava e preparava la correzione, poi veniva a casa con la corriera alle 10:30 di sera. Dopo un anno c'erano sempre dei diverbi, a un certo punto una sera fa e non mi vedrà più, è venuta a casa. E questo era Roberto, il fratello più piccolo, sta raccontando la decisione della sorella di licenziarsi, una decisione quantomeno azzardata, perché lei ha un lavoro sicuro, guadagna, lo lascia perché non sopporta più i contrasti col suo capo, vuole fare di testa sua e in famiglia scoppia una crisi, nessuno riesce a comprendere quel gesto folle, avventato, pericoloso, che in realtà è il colpo d'ala, perché lei non si ferma, acquista un paio di macchine da cucire e fa costruire due forni sotto casa sua per lavorare il terital, che era un tessuto celeberrimo in quegli anni, un tessuto che necessitava di cottura, e comincia a lavorare per conto delle grandi aziende della zona e piano piano coinvolge nell'attività un numero di ragazze abili nella sartoria, un numero che comincia a crescere. Insomma, nel 61 nasce tra le mura di quella casetta l'azienda Aurora, è l'inizio per Enrica di una lunga carriera da imprenditrice. Falco e il Gabbiano torna tra poco, qui su Radio 24. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta il falco e il gabbiano. L'azienda Aurora cresce, negli anni 70 si sposta dalla casa della famiglia Lombardi a una struttura propria, prende il nome di Henriette, che è la francesizzazione del diminutivo di Enrique, Enrichetta. Nella sua lunga vita, giunta fino al 2008, questa azienda ha visto passare 1500 dipendenti, arrivando a toccare in certi periodi le 350 operaie. Eh sì, perché lei vuole da subito che la sua azienda sia completamente femminile, riconosce nella formazione e nel lavoro il primo strumento di emancipazione della donna, e i turni vengono calibrati tenendo conto delle esigenze familiari e personali di ogni donna. È un'ottica molto moderna, rivoluzionaria, anticipa, supera i tempi. Lei pone al centro della sua attività il benessere delle sue lavoratrici e intuisce per esempio le potenzialità di una linea di taglie forti, dà vita a questa linea col marchio Don Enrica. La particolarità sta nella possibilità di combinare diverse misure, insomma, in modo che ogni completo si adatti perfettamente al fisico di chi lo indossa. Ci sono degli stilisti del calibro di Valentino, di Giorgio Armani, che si recano da lei, vanno da Henriette per apprendere i trucchi di questa produzione mai vista prima in Italia. Vogliono imitare, vogliono avviare un loro marchio. Questo business nel corso dei decenni fa la fortuna di questa azienda, la rende florida e apprezzata. E così Enrica comincia a avere disponibilità economiche che sfrutta per andare a conoscere il mondo, viaggia alla ricerca di tessuti, di contatti, ma soprattutto di nuove idee, e si affinano le sue capacità di stilista, di imprenditrice. Il viaggio diventa imprescindibile per lei, non solo dal punto di vista professionale ma anche umano. È proprio per questo motivo che Enrichetta arriverà in Africa. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. Turn to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Intanto tra il 62 e il 65 a Roma c'è il Concilio Vaticano II, è una riunione dei vescovi cattolici del mondo per discutere di temi riguardanti la vita della Chiesa. Il Concilio Vaticano II cambierà e di molto il percorso dell'umanità. Tra i partecipanti c'è anche il vescovo di Brescia, che si chiama Giacinto XIII, è molto anziano, e durante un convegno accanto a lui c'è un prete altissimo, nero, è André Makarakiza, il vescovo di Ngozi, che è una città del Burundi. Allora, il Burundi, detto il paese dalle mille colline, il cuore dell'Africa, è una terra molto particolare, e i due si mettono a chiacchierare, fanno amicizia. L'anziano sacerdote invita il collega africano a trascorrere qualche giorno a Brescia, ospite da lui. E in questa occasione Enrica, che frequenta la casa del vescovo Giacinto XIII, entra in contatto con Makarakiza, e il vescovo è colpito da questa personalità energica, la sprona a recarsi in Burundi per scoprire una realtà così diversa da quella italiana. Così nelle vacanze di Natale del 66 Enrica Lombardi mette per la prima volta piede nel continente africano, e qui la nostra storia storia e cambia completamente la situazione che lei incontra nel Burundi. È sconvolgente, non ci sono strade asfaltate, infrastrutture, non c'è acqua potabile, ogni giorno muoiono per la fame, muoiono in tanti. E naturalmente però c'è una elite che risiede nella capitale Bujumbura e che fa il bello e il cattivo tempo, mentre la popolazione vive nella miseria totale. Ma al di là di questa ingiusta oligarchia c'è Enrica, che rimane affascinata dai colori, dagli sguardi, dalle musiche, dai panorami di una terra che avrebbe molto da dare, ma che è schiacciata dall'ingiustizia, dalla violenza. Insomma, lei si sente impotente di fronte a tutta questa bellezza che rappresenta un'occasione mancata per l'umanità. Come ho visto tutta questa povera gente, come ho visto questi bambini, soprattutto la donna che non aveva una dignità, proprio povera, ecco, sottomessa all'uomo, e poi lavorare la terra con un bambino alle spalle, mano nella mano, poi era stato interessante, e non avevano magari da mangiare, non c'erano le scuole, non c'era il telefono, non c'era una vasca da bagno. Allora ho detto, ma non sarà possibile fare qualche cosa per dare a loro una dignità? E allora ho cominciato a pensare, a pregare e dire cosa posso fare. Insomma, sono settimane di riflessioni, di dubbi, di angoscia, anche perché lei con umiltà e con senso della realtà capisce che da sola non potrà farcela a risolvere il suo tormento, non riuscirà da sola a avviare un qualsiasi tipo di progetto in Burundi, e allora decide, come nel suo stile, di rivolgersi a delle altre donne. In particolare parla con le sue amiche, lo fa con entusiasmo, con la passione che lei ha sempre avuto e con anche effetti positivi, irresistibili direi. Ho parlato alle mie amiche e loro mi hanno detto, ci stiamo a fare qualche cosa, se mai andiamo giù. Allora non mi sono più sentita sola. Comincia a nascere questo legame, questo gemellaggio col Burundi. L'8 dicembre del 67 a Linate arrivano 5 ragazze mandate dal vescovo Makarakiza. L'obiettivo del loro soggiorno in Italia è quello di apprendere le regole della sartoria da Enrica Lombardi nella sua azienda, per rientrare nel Burundi e poter lavorare in maniera indipendente, ma anche per insegnare alle altre le tecniche del mestiere. E sono seguite dalle prime amiche che Enrica è riuscita a coinvolgere nel suo progetto, che sono anche le dipendenti della sua azienda. C'è un periodo di formazione, poi bisogna partire alla volta del Burundi, partono le africane accompagnate dalle insegnanti italiane, e poi c'è un seguito di materiale, portano del materiale per attrezzare una casa, un laboratorio di sartoria a Gitega, un paese nel centro del Burundi. Rosa, una delle italiane che sono partite, racconta questa esperienza che si sarebbe trasformata per lei nella missione di una vita. Il 6 luglio 1969, Maria, Tilde e io, con le nostre negrette, fra gli addii, i saluti e parecchie lacrime, partiamo da Linate, iniziando così la nostra meravigliosa avventura, o meglio, la nostra missione africana. Abbiamo lavorato, collaborato e dato inizio a parecchie attività. L'accoglienza per tutti quelli che bussavano alla porta, la scuola con 3 turni di ragazze, le donne che imparavano a crescere i bambini, il laboratorio dove lavorava un bel gruppo di ragazze operaie pagate che facevano le divise per le varie scuole delle missioni, il dispensario per piccole prestazioni sanitarie. Andavamo anche dai lebbrosi, che erano abbandonati da tutti. Eh sì, quante volte avete sentito dire negli ultimi tempi la frase «bisogna aiutarli a casa loro». Va bene, però poi bisogna farlo veramente. Non è facile, perché lì ci sono difficoltà infinite, c'è la fame, ci sono le malattie, la povertà, la mancanza di istruzione, le strutture che non ci sono, ed è difficile far capire all'interno di quello scenario l'importanza di assumersi delle responsabilità, fare diventare delle persone consapevoli delle loro potenzialità. È un obiettivo non facile da raggiungere, però nulla può scoraggiare queste donne intraprendenti. Insomma, nel 1969 Enrica Lombardi dà vita all'associazione Museche. Il vescovo burundese che per primo mi ha inviato nella sua terra, Monsignor Makarakidza, ha suggerito il nome della prima casa di accoglienza che si trovava a Gitega, ex capitale del Burundi, e ha anche dato il nome dell'associazione Museke, che significa nel contempo sorriso e alba di un mondo nuovo. Only love can make it rain the way the beach is kissed by the sea. Only love can make it rain like the sweat of lovers laying in the field. Falco e il Gabbiano torna tra poco, qui su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Enrica Lombardi, una donna nata a Castenedolo in provincia di Brescia negli anni 30, che diventa una imprenditrice di successo, ma soprattutto diventa una vera e propria filantropa, si impegna in Africa e poi in America Latina e si distingue molte volte per il suo coraggio, per la sua lungimiranza, una vicenda che pochi conoscono, che però è una vicenda straordinaria. Lei è riuscita a coniugare dei mondi apparentemente inconciliabili, è riuscita a dedicarsi sia al lavoro che all'impegno umanitario e ha coinvolto in ogni suo progetto molte altre persone. Nel 1969 ha dato vita all'associazione Museke, che inizia la sua opera in Burundi. Intanto in Italia la sua azienda di abbigliamento va molto bene, la Henriette, e questo le dà la possibilità di avere anche una base economica sicura per poter proseguire con i progetti in Africa. E lei un paio di volte all'anno è lì e nel suo impegno viene affiancata dai fratelli e da un numero crescente di persone che arrivano dalle realtà più diverse, come se lei esercitasse un magnetismo in grado di trascendere le classi sociali, le convinzioni religiose, gli stili di vita. Riesce a motivare un sacco di persone a fare cose nuove e fino a quel momento impensate. Il Burundi è una terra dimenticata dagli uomini e, ahimè, spesso anche da Dio. Nel corso del Novecento è stata teatro di violenze estreme con motivazioni etniche e forse che vengono prese a pretesto per motivazioni politiche e soprattutto economiche, e il numero delle morti è altissimo nel 72, poi di nuovo nell'83 e nell'84 esplode questo odio razziale incomprensibile tra le etnie Hutu e Tutsi. La situazione diventa sempre più tesa, si trasforma in una crudele e cruentissima guerra civile. Il re ordina l'evacuazione dal paese di tutti i bianchi. Ascoltate il racconto del fratello di Enrica Lombardi, il fratello è un sacerdote, Don Roberto Lombardi. Il capo ha fatto evacuare tutti i bianchi, sicché nel 84 nessun missionario, nessun bianco era presente. Chi è stato presente? Naturalmente noi, perché erano tutte donne, e donne non valgono niente, quindi noi abbiamo salvato centinaia e centinaia di persone in casa nostra. Lì naturalmente c'è stato tutto il caso di coscienza anche di dire: allora, la nostra testimonianza è più visibile se andiamo via come tutti gli altri, o restare pur di avere una vita che possa essere di appoggio alla vita degli altri. Il clima politico sta peggiorando, ma nonostante questo a Natale dell'83 arrivano a Gitega, a casa Museke, due suore di Assisi. Sono state inviate dal Ruanda, che confina, per dar vita a un nuovo convento. Si scontrano con la mancanza di fondi della diocesi locale. Enrica sta trascorrendo lì le vacanze natalizie e rimane molto colpita dall'incontro con queste due giovani suore. Nel giro di qualche mese l'associazione Musieca comincia i lavori di costruzione del monastero vicino a Kigali, che è la capitale del Ruanda, e sempre grazie all'opera di Musieca vengono costruiti un ospedale, una struttura per disabili, un centro per bambini orfani e addirittura una palestra per la fisioterapia. Oh, the trees grow higher than the mountain in the land of free love and goodbye. The rivers ever flowing, fish is growing. And the God I love loves me. Tutto fa pensare a un inizio, un avvenire radioso. Sembrerebbe pararsi di fronte a Enrica Lombardi e alla sua associazione, ma purtroppo la storia ha in serbo altri programmi, perché il 6 aprile del 94 i presidenti del Burundi e del Ruanda vengono uccisi in un attentato. Il loro aereo viene abbattuto e in Ruanda si scatena un genocidio che in 104 giorni elimina quasi 1 milione di persone eliminate a colpi di macete. In quel momento nel centro di Musieca ci sono 4 volontari italiani con degli amici, con dei parenti, ci sono 5 ragazze ruandesi, c'è un gruppo di suore, un'equipe di medici belgi, ci sono 41 orfani che hanno meno di 3 anni e 33 adolescenti disabili. E immaginate le giornate che si fanno sempre più cariche di angoscia. Gli avvenimenti vengono riportati in quello che diventerà un diario dell'associazione. Rilima, domenica 10 aprile 1994. Apprendiamo dei primi morti, circa una quarantina. Avevano cercato scampo durante la notte fra le piante di papiro sul bordo del lago, accanto al nostro centro. Da questo momento si intensificano i contatti telefonici con il console italiano, Pier Antonio Costa, per la possibile evacuazione del centro. Durante la notte sentiamo rumore di spari ed urla. Immaginate la situazione, è una situazione che si sta aggravando di ora in ora. Il personale comincia a ricevere dei feriti e ne arrivano sempre di più. Rilima, lunedì 11 aprile 1994. Ci rechiamo al dispensario e operiamo in situazione di emergenza una giovane donna che presentava una ferita profonda al cranio ed una amputazione pressoché completa della mano destra. Si procede ad amputare la mano e alla sutura della ferita al cranio. Successivamente ci dedichiamo ad un ragazzo al quale estraiamo una freccia dall'addome. La situazione è terribile, i contatti con le istituzioni dal Ruanda e da Brescia si fanno sempre più complicati. L'ambasciata francese a Kigali dimostra di non essere al corrente dell'operazione che era stata annunciata il giorno precedente, che avrebbe dovuto portare all'evacuazione del centro con l'aiuto dei parafrancesi. Enrica Lombardi, che è in contatto telefonico dall'Italia, cerca di rassicurare i volontari, ma la disperazione sta aumentando. Rilima, 11 aprile 1994. Sentiamo le urla dei banditi attorno a noi, che in gruppi di 30-40 persone cominciano a stanare i tuzzi. Si recano verso la chiesa, nella quale si erano rifugiate alcune persone. Scardinano la porta e trascinano i corpi di bambini, donne ed anziani appena uccisi, gettandoli nella fossa settica che serve come toiletta accanto alla chiesa. Alcuni militari di passaggio non solo non intervengono, ma continuando la loro strada fanno un cenno di assenso con il pollice alzato. E alle ore 16 a Castenedolo arriva un drammatico fax. Siamo circondati da elementi armati che tentano di forzare le entrate del centro e pretendono la consegna dei nostri collaboratori locali. Chiediamo urgente ed efficace intervento armato, tale da liberarci da questa situazione e scortarci fino al punto di rimpatrio assicurato dal nostro governo. Sono momenti drammatici, inizia un contatto telefonico serratissimo con il Ministero degli Esteri italiano, con l'ambasciata belga a Kigali, e poi arriva la notizia che all'alba del giorno seguente un corpo speciale di paracadutisti belgi si sarebbe recato al centro per proteggere gli ospiti del centro, per favorire poi l'evacuazione magari con un convoglio armato. Ma la mattina del 12 aprile la nebbia fitta fa desistere i militari dal paracadutarsi. L'attesa del convoglio diventa estenuante. Ai cancelli un gruppo di banditi comincia a fare richieste pressanti. I volontari prendono tempo, consegnano l'autocarro del quale si servono per spostarsi. Poi finalmente arriva il convoglio armato e ci si rende conto che non c'è spazio sufficiente per tutti. Il comandante, nonostante le assicurazioni che erano state date dall'ambasciata belga, spiega che non è possibile evacuare persone ruandesi perché l'operazione sarebbe ad altissimo rischio. Insomma, gli italiani e i medici belgi sono costretti a lasciare il centro, abbandonando i bambini, gli adolescenti, i disabili e le ragazze locali che lavorano lì. Il momento è straziante. Alla costernazione di dover lasciare i bambini si è aggiunto il pianto disperato delle ragazze che imploravano i soldati di sparargli piuttosto che essere straziate a colpi di macete dai ruandesi. L'unica cosa che abbiamo potuto fare è stata lasciare loro del denaro con cui si sono comperate la loro incolumità e quella di tutti i bambini. Intanto Enrica Lombardi, che è esasperata dalla tensione, dalla paura, sta mantenendo un contatto continuo con l'unità di crisi presso il Ministero degli Affari Esteri, col Ministero degli Interni, con quello degli Affari Sociali. Poi arriva una telefonata che cambia tutto. Ho telefonato l'unità di crisi, ma l'unità di crisi mi diceva che cosa possiamo fare. Ormai c'è anche l'aeroporto chiuso. Allora mi sono rivolta al sindaco di Brescia, all'onorevole Andreatta, al sindaco di Castenedro. Tutti hanno collaborato. Castenedro pregava, tutti pregavano per i bambini. A un certo punto mi arriva una telefonata dall'onorevole Andreatta e mi dice: noi facciamo partire un aereo, così questo aereo, essendo militare, poteva atterrare e caricare tutti i bambini e portarli in Italia. E così fu fatto. E noi questa cosa la chiamiamo miracolo dell'amore. Eh sì, Enrica Lombardi non molla, sarà anche un miracolo, ma lì ci vuole gente che vada a telefonare, a insistere, a pressare i potenti. Rilima, Kigali, Nairobi, Ciampino, Verona, tappe di un viaggio di 3 giorni che salva 80 persone dal genocidio ruandese. 33 disabili raggiungono poi il Belgio e iniziano una nuova vita in un centro che verrà dedicato a loro. I 41 orfani, 41 bambini orfani arrivano a Castenedolo il 15 aprile 1994. Per un mese questi 41 bambini vanno a casa di Enrica, a casa di Enrica Lombardi, poi vengono trasferiti in una ex scuola materna e il fratello di Enrica, Don Roberto, viene nominato tutore legale di tutti e 41. I bambini vengono avviate le procedure di adozione da parte di molte famiglie bresciane. Vedete quanto il nord-est, di cui tanto si parla, abbia un grande cuore. Le difficoltà burocratiche però sono enormi, anche perché il governo del Ruanda accusa l'associazione Museka di aver rubato i bambini, li rivuole indietro. C'è una lunga trafila burocratica legale. Enrica e Don Roberto vengono banditi dal Ruanda come se fossero dei criminali. Nonostante questo, il centro di Rilima continua a esistere anche oggi, grazie a altre associazioni che si sono servite per il bene delle popolazioni locali, delle strutture del centro. Intanto in Italia i bambini entrano nelle loro nuove famiglie, ne rimane solo uno, Cesare, che ha 3 anni, che dopo una serie di peripezie viene adottato proprio da Enrica e dal fratello, da Don Roberto. Così Enrica Lombardi diventa anche una mamma. Però lei non si ferma, continua la sua attività di imprenditrice, porta avanti l'associazione Museka, la estende oltre che in Burundi, in Burkina Faso, e poi si va anche in America, in Guatemala e in Bolivia. Lei più volte ha dato colpi d'ala alla propria esistenza, compiuto grandi voli in giro per il mondo. Muore il 24 maggio 2015 a 82 anni per una malattia che la spegne in pochi mesi e lascia in eredità al mondo l'associazione Musee, che lascia il suo entusiasmo, la sua testimonianza di speranza, di coraggio, di come combattendo ogni giorno si possa realizzare la pace e forse si possa anche cercare di costruire un mondo migliore di questo. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, storie che magari sono sconosciute ai più, e il nostro compito è segnalarvele, magari anche per farvi riflettere quando concedete la palma di popolarità a delle persone che non hanno un millesimo dello spessore che hanno altre persone come quella che abbiamo appena raccontato. Ognuno di noi nella sua vita può cadere, ma può anche dare un colpo d'ala per se stesso oppure per gli altri. Se volete mandare dei commenti, segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, venite sul nostro sito, venite sui miei social, Facebook, Twitter, Instagram, sui nostri social, insomma, se volete lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno e Anna Poli. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.